Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Eccoci qua, due papà in questo programma che parla di padri e parla ai padri ogni settimana. Radio24.it è il nostro sito da cui potrete poi scaricare il podcast. Invece nella pagina ufficiale di Facebook potete trovare tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando. Come stai, Matteo? Beh, due papà molto stanchi, direi, no? Perché questo periodo dell'anno, dai, diciamoci la verità, possiamo dirlo apertamente, insomma, è un periodo infernale per ogni genitore, perché ci sono le letterine, ci sono le richieste, dobbiamo correre a comprare i regali, poi nasconderli senza farci scoprire. Io ho lo studio stipato. Ah, ops! Sì? Per fortuna non ascoltate. Sì, è vero, insomma, il regalo diventa un po' la parola chiave, che insomma è anche un oggetto educativo, no? Perché insomma puoi dargli un valore. Noi parliamo spesso di ponti, no? Di oggetti, di situazioni, di momenti che diventano un possibile contatto con i nostri figli. Beh, il dono ha tutta questa carica emotiva. Assolutamente ce l'ha. L'importante è sempre tenere presente che il dono deve piacere a chi lo riceve. A volte noi genitori magari tendiamo a fare doni che sono utili secondo noi, ecco, forse già questo è un po'. E poi c'è un po' il panico da letterina a Babbo Natale, perché a volte la vorremmo poter dettare questa letterina invece. Guarda, da noi in Veneto in questo periodo ci sono due festività attaccate, perché oltre al Natale noi abbiamo la Santa Lucia, vero, che vero. È fortissima e viene quasi più considerata di Babbo Natale, e sono ravvicinatissimi, quindi io vivo proprio circondato da letterine di tutto, avendo tre figlie, figurati. Oggi parleremo quindi di doni, parleremo di regali, parleremo del come prepararsi al Natale. Quando spunta il sole fa il cri cri, e se vado a scuola anche il maestro fa il cri cri. Quando il gallo canta fa il cri cri, che poi torno a casa anche di Pinocchio, per dare il benvenuto al primo ospite, che insomma è di fatto è un Geppetto. Diamo il benvenuto a Francesco Bartolucci. Ciao Francesco. Ciao, buongiorno. Buona domenica Francesco. Artigiano del legno, ma costruttore di giochi e giocattoli da oltre 30 anni, ma soprattutto sì, è costruttore di Pinocchi. Quanti ne hai realizzati, Francesco? Hai mai provato a contarli? Migliaia di questi Pinocchi che sono diventati, insomma, sono nati come la tua arte e poi sono diventati la tua passione e poi la tua professione. Ora decine di negozi di Bartolucci in giro per il mondo con questi oggetti bellissimi in legno. Francesco, ma cosa succede quando un papà entra in uno dei tuoi negozi? Hai mai notato qualcosa di particolare, di curioso? Come siamo noi padri quando ci confrontiamo con l'elemento ludico, con il giocattolo? Ci ricordiamo l'infanzia, quando entriamo in un negozio, che quando ci entravamo da bambini e si prova la stessa emozione. Nei miei negozi spesso la gente si emoziona, perché è quello che voglio dai clienti. A me non interessa se comprino o non comprino, vogliono che provino un'emozione, un ricordo dell'infanzia, e io curo molto questa parte del negozio, non tanto degli oggetti esposti, ma di creare un'atmosfera, una storia dietro. Francesco, posto che allora secondo me la gente si emoziona, perché poi Pinocchio è una storia che è rimasta nel cuore di tutti, no? Perché è un viaggio del singolo alla conquista della sua umanità. In un certo senso, no? Il percorso di un individuo burattino degli eventi che poi man mano recupera la sua dignità di uomo. Io volevo in realtà girarti la domanda di Federico, cioè che cosa succede quando un bambino entra nel tuo negozio? C'è ancora interesse per i giochi che si toccano, per il legno, per la materia, no, in quest'epoca in cui tutto sembra... Sì, devo dire la verità, i bambini provano un attimo di smarrimento, perché loro sono abituati a negozi di altri tipi, alla pubblicità soprattutto, che li indirizza su altri oggetti, altri regali. Però alla fine, quando un genitore cura il bambino, gli spiega, alla fine vedo che anche i bambini rimangono colpiti da quello che vedono. Quindi il legno comunque ha ancora un suo valore, ha un suo, sì, colore, sì, ha un suo odore, ha una sua temperatura. È come l'odore del pane, l'odore del legno. Proprio. Ah, che bella questa cosa. È proprio vero. Sì, porta subito lì. Prima citavi la parola emozione, che insomma, che è quello che cerchi di mettere nei tuoi giocattoli, no? Una delle tue creazioni più amate è questo Geppetto che abbraccia Pinocchio, no? È proprio un abbraccio vero, un abbraccio reale. È questo, un abbraccio forte. È questo per te essere padre? Sì. Anche perché questo Pinocchietto che facciamo con Geppetto richiama le mie sembianze. Sono io. È un abbraccio stretto, un abbraccio proprio a occhi chiusi di due persone che si vogliono bene. Tu e i tuoi figli avrai costruito da sempre giocattoli? Sì, io ho costruito da piccolo i giocattoli miei, perché babbo era falegname, e ho cercato di appassionare anche i miei figli. Costruivamo assieme delle cose, delle carioline, delle trottoline. Da piccoli spesso venivano in bottega con me, come io facevo con mio padre, insomma, quando c'era il sole giocavo, però quando pioveva ero sempre da mio padre in bottega. Lui mi metteva da una parte nel suo laboratorio con un po' di chiodi e un martello, e io creavo delle cosine che poi è diventata la mia passione. Ma questo è un elemento molto interessante che poi al giorno d'oggi forse un po' si è perso, no? Sì. Anzi, senza forse, ma è interessante perché in questo modo costruire un gioco diventa il gioco stesso, realizzarlo. Sì. Ed è questo in realtà, a proposito del fatto di passare tempo assieme, di cercare, sì, può essere un elemento determinante. È passare dalla mente alle mani. Sì. Perché è una cosa che il bambino pensa, di averlo realizzato, è una cosa magica. Un grazie a Francesco Bartolucci, artigiano del legno, bartolucci.com, per conoscere questo mondo ludico, questo mondo emozionante, questo mondo profumato, perché il legno, come diceva prima Francesco, appunto ha questo odore, è come il pane, fa comunque evocare tantissimi ricordi in noi adulti. Ciao Francesco, grazie, buona domenica. Ciao, ciao. Ciao Francesco. Noi ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita DeGiro.it. Vi presenta Padri Eterni. È qui la festa, insomma, sperando che rimanga una festa e non che diventi un incubo. A volte un po' questa caccia al regalo, questa caccia al dono, no? Queste due settimane che ci aspettano al Natale rischiano un po' di trasformarsi in verità in un periodo un po' trafelato, ecco, usiamo questo eufemismo, vero Matteo? Allora andiamo a capire come noi padri ci possiamo porre nei confronti dei regali, e lo facciamo con Paola Venuti, docente di psicologia dinamica all'Università di Trento. Buona domenica Paola, benvenuta ai Padri Eterni. Buona domenica. Buona domenica. Allora, prima di fare un regalo, quali domande ci dobbiamo porre noi in quanto padri? Dobbiamo leggere la letterina, secondare i desideri e basta, o ci sono altre attenzioni a cui è bene tener conto? Beh, leggere la letterina è obbligatorio, nel senso che dobbiamo assolutamente sapere cosa desidera nostro figlio, anche per conoscerlo. Poi, che dire, qualcosa, insomma, un po' bisogna accontentarlo un figlio, però penso anche che un figlio vada anche indirizzato e vada guidato verso quello che il genitore ritiene anche sia una cosa positiva per lui o sia importante per lui conoscere e apprezzare. Certo, molto dipende anche dall'età del bambino, insomma, perché se parlo di un ragazzo di 14 anni è un conto, se parlo di un bambino di 3, 4 anni, 8 anni il discorso è diverso, secondo me. Un genitore può anche non accontentare tutti i desideri dei figli. Oh, e diciamola, questa cosa, insomma, credo che vada espressa con chiarezza. No, anche perché, dottoressa Venuti, io a volte ho questa impressione, questa paura in realtà che le espongono, cioè che noi adulti a volte usiamo i doni quasi come merce di scambio, no? Riusciamo ad usare un oggetto che regaliamo per lenire i nostri sensi di colpa, magari perché siamo stati poco presenti. E il rischio, ho l'impressione, è che il bambino finisca per considerarci, cioè, o per considerare il genitore sulla base di quello che può dargli, no? E questo rischia di diventare paradossalmente poi un suo modello relazionale, magari anche per il futuro. Questo purtroppo è un dato reale, oggi come oggi è così. I genitori hanno spesso sensi di colpa per il poco tempo che passano con i figli, e sicuramente il regalo è un qualcosa un po' di compensativo, di dire va bene, non ci sono stato, ma ti accontento. Un altro aspetto che io vedo è che spesso un genitore fa molta fatica, proprio perché si sente in colpa, a accettare e cogliere, vivere, anche se con dispiacere, quello che può essere l'arrabbiatura di un figlio. È chiaro che se un figlio non è il regalo che vuole, abituato ad avere sempre quello che vuole, si arrabbia. Se un figlio sa che delle cose le può avere, delle cose non le può avere, che per avere delle cose che per lui sono dei grandi desideri deve mettere anche un impegno, una fatica, un tempo suo, sì, probabilmente si è abituato così, accetta molto di più e risulta anche più solido rispetto degli compiti e delle sfide sociali, no? Come... quindi trasmettere anche il valore dell'attesa, no? Che poi, esatto, del resto è anche quello che dovrebbe rappresentare il Natale. Il valore dell'attesa è il valore di conquistarmi un qualcosa. Certo. Una linea comune nel fare il regalo però debba essere anche il piacere del genitore di regalare quell'oggetto, quel gioco, quel libro, quel momento al figlio, per il piacere di poterlo fare assieme, di passare del tempo assieme, di poter giocare assieme. Credo che fare al figlio un regalo che porta il figlio ad allontanarsi dal genitore e a non stare con lui non sia una cosa bella, ecco. Venuti, però mi chiedo, in quanto padri a volte ci sentiamo forse inconsciamente orgogliosi se nostro figlio o nostra figlia ci chiede un regalo adatto magari a un ragazzino o una ragazzina un po' più grande, perché ci sembra che magari sia più maturo, che abbia capacità più sviluppate. È un rischio questo? Dipende dal tipo di regalo, nel senso che se un figlio chiede un qualcosa perché lo sa usare, un po' più avanzato rispetto alla sua età, e lo sa usare, lo sa padroneggiare, e comunque, ripeto, è comunque un qualcosa che lui condivide anche con genitori e con amici, secondo me è giusto anche essere orgogliosi. Se il figlio chiede un qualcosa perché tutti quanti lo chiedono, perché quella è la moda, perché tutti quanti ce l'hanno, e allora penso che un genitore debba anche saper dire no in questo caso. Ovvio che i ragazzi usano i videogiochi, passano tempo al computer e chiedono anche regali di questo tipo. Ci sono dei videogiochi che sono molto belli, che si possono fare assieme, oppure si può condividere quello che fa il figlio mentre lo fa, e sono delle cose che vanno benissimo, no? Non dico di no. Certo. C'è quel videogioco stupido, ripetitivo, che ti tiene là fermo e che tu fai da solo, forse un genitore può anche dire quello, non te lo regalo. Penso sempre che il regalo debba essere una cosa per stare assieme, sì, e non una babysitter. Possiamo quasi concludere che forse uno dei regali più belli e più sottovalutati è il tempo da passare, esatto, insieme. Io, no? Credo che un figlio abbia bisogno di tempo, anche un figlio di 14, 15, 16 anni che ti dice papà ma togliti da mezzo, mezzo, però in realtà è felice che il padre riesca a passare del tempo con lui. Certo, smettendola di rimandare, no? Perché poi, esatto, alla fine, come dice Kung Fu Panda, l'oggi è un dono, per questo si chiama presente. Grande, questa citazione può svoltare la puntata. Grazie Matteo. Un'ultima domanda, ma c'è un'età giusta quindi per lo smartphone? C'è un'età sopra o sotto la quale comunque bisogna accedere? Penso che un ragazzino che sta a scuola elementare, scuole primarie, non deve avere lo smartphone, non è necessario, non gli serve, può ogni tanto giocare con quello della mamma o del papà, insomma, no, ma non ne ha bisogno, ed è, quando i genitori lo regalano, è anche un loro modo di controllare il figlio. Anche alle scuole medie, un ragazzino, non lo so quanto veramente è necessario. Credo che poi diventi, non averlo diventi una penalizzazione sociale. Per cui dico a 14 anni, quando vado nelle scuole superiori, oggettivamente dico sì, vabbè, a quel punto là veramente fai l'unico che non ce l'ha e ci no. Però ci sono veramente delle età in cui non ha senso che un figlio lo abbia. Ringraziamo quindi Paolo Avenuti, docente di psicologia dinamica all'Università di Trento. Buona domenica. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. Hai un amico in me, un grande amico in me. Se la strada non è dritta, ci sono 2000 pericoli. Ti basti solo ricordare che c'è un grande amico in me, di più di un amico in me. Hai un amico in me, più di un amico in me. I tuoi problemi sono anche miei e non c'è nulla che io non farei per te. Se siamo uniti scoprirai che c'è un vero amico in me, più di un amico in me. E ci facciamo accompagnare da questa musica, la canzone di Toy Story, perché continuiamo a parlare di giochi. Abbiamo ascoltato la dottoressa Venuti che ci ha detto, insomma, regalate un po' quello che volete, l'importante è che ci sia un momento di condivisione, credo che sia un suggerimento vitale in vista del Natale. Beh, il gioco di società è momento ludico ed è momento di insieme, quindi andiamo a capire come noi padri. A te piace, Matteo, giocare ai giochi di società? Sì, assolutamente, soprattutto i giochi che coinvolgono le carte e questo genere di cose piacciono moltissimo anche alle mie figlie. Sì, beh, sì, insomma, perché ci sono tante dinamiche che si attivano, sì, insieme. Andiamo quindi a cercare qualche dritta in vista del Natale, lo facciamo con uno che è forse il massimo esperto di gioco in Italia, è un giocologo, è un giornalista, è autore, tra i tanti libri che ha scritto, questo mi piace in particolare, ed è Storie di giochi, edito dalla Gallucci. Diamo il benvenuto ad Andrea Angiolino. Ciao Andrea, buona domenica. Ciao e buona domenica. Ciao Andrea. Beh, ciao. Allora, Natale è tempo di gioco, tempo per sperimentare nuove scatole da aprire. Si diventa sempre un po' matti i primi minuti col libretto delle istruzioni, però anche quello fa parte del gioco, per l'appunto. Ci hai selezionato qualche titolo giusto in vista di questo Natale, dove magari anche noi padri, insomma, possiamo fare bella figura? Ma guarda, sicuramente sì, devo dire che sono anche aiutato dal fatto che esistono dei bei premi per i giochi, sì. Fra l'altro i tedeschi sono bravissimi a fare i Familienspiel, i giochi per la famiglia, quindi dove si giocano insieme adulti e bambini, e lo Spiel des Jahres, il gioco dell'anno, è andato a King Domino, è un gioco di Bruno Catala molto carino, anche graficamente. Ogni giocatore ha un suo castello, ci sono delle tessere con prati, campi, paludi, boschi e così via, sì. Ogni turno si sceglie a turno una tessera e poi la si mette accanto al castello, si cercano di comporre dei territori omogenei più grandi possibile, per cui man mano di mettere i laghi coi laghi, i boschi coi boschi. Alcune tessere poi hanno degli edifici che moltiplicano la dimensione, insomma vince chi fa poi più punti. Il regno più bello, ok. Sì, sì, un gioco molto semplice ma anche molto ben costruito, per cui chi sceglie le tessere migliori sarà poi l'ultimo a scegliere il turno dopo, c'ha dei suoi equilibri, piace molto ai bambini ma è anche adatto agli adulti che volendo ci possono trovare dentro delle belle strategie. Perfetto. Tanto che anche il premio gioco del l'anno in Italia è andato a lui. Ok, quindi insomma ha vinto in entrambe le nazioni. Un secondo titolo che ci vuoi suggerire? Potremmo vedere il gioco dell'anno tedesco per bambini, High School, scritto Ice Call, lo dico banalmente all'italiana, sì. Un gioco di parole col ghiaccio, perché ci sono dei piccoli pinguini, hanno una basetta tonda come nel vecchio Subbuteo, la scatola si monta a diventare una scuola, appunto, in cui questi pinguini scappano inseguiti dal bidello. È un gioco di abilità a colpi di dito, quindi molto frenetico, c'è poco da pensare. Questo è un altro gioco consigliato un po' a tutte le età. E anche ai bidelli, insomma, che è importante, sì, sono una categoria. Un terzo titolo, Andrea, prima di salutarci. Ma per i piccini amo molto Zick Zack e Spina il Pollo, che è un gioco di memoria di galline che si inseguono, di Zoc, che è un classico. Però direi che il grande successo adesso lo ha Double, che è un gioco di carte molto colorate, rotonde. È un mazzo di carte un po' originale con tanti regolamenti molto veloci per giocarci. Darei anche un piccolo consiglio per i più grandi, sì. Se non li conoscono ancora, io mi orienterei su Bang di Emiliano Sciarra o sulla Guerra dell'Anello, che invece è un classico italiano tratto dal film. Mentre in Bang si gioca in tanti, uno sceriffo e i suoi aiutanti e banditi si gioca a carte una piccola sparatoria col trucco che non si sa chi sono i propri alleati, per cui c'è molta tensione, molto divertimento. Mentre la Guerra dell'Anello, sulla mappa della Terra di Mezzo ci sono eserciti di miniature molto belle scolpite in plastica. È un gioco più da due o da due squadre, molto più di riflessione e di strategia. E se vogliamo citare i classici, è L'Erede del Risico. Perfetto, insomma abbiamo un sacco di suggerimenti per questo Natale in gioco con padri e figli. Grazie ad Andrea Angiolino, ciao e buona domenica. Grazie a voi, buona domenica a tutti. Ci fermiamo nel momento della pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Eccoci qua ancora con i Padri Eterni, Federico Taddia, Matteo Bussola e i regali, regali di Natale, come ci poniamo noi padri nell'acquisto, nella scelta, nella condivisione dell'oggetto. E come sempre radio24.it è il nostro sito, da lì potrete scaricare la puntata oppure potete mandarci messaggi al nostro indirizzo di posta elettronica padreeterni@radio24.it, anche se avete dritte, suggerimenti, critiche, tutto ciò lo potete fare anche nella nostra pagina Facebook. Adesso parliamo di videogiochi e anche lì nella sfida tra padri e figli. Qual è stato il tuo primo gioco di Mario? Il mio primo gioco di Mario è stato Super Mario Kart. Il mio primo gioco di Super Mario è stato Super Mario Bros. Ci canti la canzoncina di Super Mario? Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Un'intervista doppia che è stata realizzata dal sito Lega Nerd Super Mario, appunto a proposito sempre di ponti generazionali, è sicuramente uno di quei giochi che mette d'accordo padri e figli. Ma andiamo a parlarne di tutto ciò con Luca Tremolada, giornalista del Sole 24 Ore, esperto di tutto ciò che riguarda le tecnologie e autore di un bellissimo pezzo intitolato Guida per genitori analfabeti digitali. Ciao Luca, buona domenica. Ciao a tutti e buongiorno agli ascoltatori. Ciao Luca. Allora, già questa parola analfabeta digitale è una sorta di libretto delle istruzioni, quello che hai realizzato, no? in questo articolo. Tu, padre, che per la prima volta ti metti di fronte ai videogiochi dei tuoi figli, queste sono le cose che devi sapere. Quali sono queste cose che ci dobbiamo assolutamente segnare? Allora, innanzitutto questa guida nasce da un senso di irritazione nei confronti dei genitori appunto analfabeti digitali, per cui insomma ti avvicinano al mondo del gaming come se fosse qualcosa di estremamente pericoloso o lontano. In realtà i videogiochi sono uno strumento straordinario per comunicare con i figli, nel senso che ormai loro sono dentro a questi mondi e forse il modo più immediato dopo la palla è facilissimo, butti la palla, sei un figlio maschio, la insegue e cominciate a giocare. Ecco, il videogioco viene subito dopo la palla, per cui l'idea è stata quella di avere un tono non troppo aggressivo, anche se io di mio sono un po' aggressivo, e cercare di spiegare ai genitori che insomma i videogiochi si dividono in genere, ci sono gli sparatutto, ci sono quelli che sembrano un po' violenti, ma attenzione, loro vedono delle cose che noi non vediamo, questo è il punto vero, dove noi leggiamo sovrastrutture, violenza, sangue a tonnellate, loro vedono semplicemente un obiettivo da raggiungere, uno strumento per diventare più bravi e chiaramente per ottenere dei premi. Per cui insomma dobbiamo fare un'operazione di grande unità e provare a entrare dentro a questo universo, ma esattamente come quando leggiamo un fumetto, leggiamo qualcosa che interessa loro. Luca, beh, ma guarda, ormai è assodato che i genitori di ogni generazione hanno bisogno di uno spauracchio da agitare. Per quelli della nostra erano i cartoni animati, no? La violenza dei cartoni animati giapponesi di Robottoni, tanto per dirne una, che non era che altro che la messa in scena dell'eterna lotta fra il bene e il male, cosa che poi ritroviamo spesso anche nei videogiochi. Adesso tocca ai videogiochi, ma è sempre la stessa storia. Beh, peraltro io mi ricordo che i cartoni animati giapponesi come qualcosa di meraviglioso, mentre quelli della Disney mi hanno sempre terrorizzato. Però per la generazione dei miei genitori c'era il guarda Biancaneve, io mi ricordo la figura della strega che era terrificante, mentre c'era appunto delle critiche su Gigli Robot d'acciaio dove non c'era nulla di violento, almeno non, sì, c'erano i mostri brutti, c'erano la faccia che veniva fuori, però mamma mia. Sì. Luca, ci sono videogiochi che vanno monitorati e altri invece dove si può essere più sereni? In realtà non va tutto bene, nel senso che ci sono dei videogiochi che sono un po' come respirare la colla, cioè creano dipendenza. Facciamo una precisazione forte: non esistono videogiochi che creano dipendenza, esistono personalità dipendenti ed esistono dei meccanismi che rendono più facile cadere e insomma non staccarsi più dal game. Faccio qualche esempio: Clash of Clans è un gioco che va monitorato. Okay. I giochi di carte sullo smartphone vanno monitorate perché sono fatti molto bene, perché le partite durano poco, perché ti connetti online, perché hanno un sistema di premio estremamente facile, per cui continui a essere premiato sostanzialmente ogni volta che vinci la partita. E quindi cosa succede? Ti può capitare che il ragazzino, quando ha un momento di distrazione, non fa altro che prendere il cellulare e cominciare a giocare come un matto. Ecco, quello va tenuto un po' sotto controllo. Poi è l'equivalente di quel tipo di dipendenza che si sviluppa anche negli adulti, in realtà, no? E quei giochi premio-ricompensa, tutto il discorso delle slot machine, di queste robe qua, ha la stessa modalità psichica, diciamo così. Ma infatti anche Candy Crush, non so se l'avete presente, certo. Quello delle palle caramelle, quelle delle caramelle, io ho dovuto cancellarlo a forza perché mi sono ritrovato a 40 e passa anni a giocare ogni volta che c'era tra una fermata e l'altra dell'autobus, per cui insomma ho dovuto cancellarlo. Però diciamo che anche lì va monitorati, ma noi stessi ci dobbiamo monitorare, nel senso che poi non è che siamo tanto così esenti da queste cose. Senti Luca, ma parliamo di cose serie. Essendo io uno assolutamente vecchia scuola, per me i videogiochi sono solo i videogiochi di menare, cioè il caro vecchio Street Fighter, per capirci. Lo Street Fighter di oggi qual è? I picchiaduro si chiamano, sì, in genere. Questo, i picchiaduro, diciamo che ormai fanno parte del nostro passato. I ragazzini ci giocano pochissimo, piacciono solo a noi. Vedi, ce li siamo portati dietro, per cui sì, c'è Street Fighter, ci sono altre due o tre declinazioni, tutti giapponesi peraltro, per cui è proprio una tipologia di gioco che arriva dal Giappone ed è rimasta in Giappone. Adesso i ragazzi piace un po' meno. Luca, ti faccio una domanda che anche per andare incontro alle esigenze di Matteo, senza scomodare o infastidire la Boldrini, sono i maschi che giocano solitamente di più rispetto alle femmine ai videogiochi, no? Non è un pregiudizio, cioè così anche le statistiche lo dicono. Allora, io online ho trovato delle femmine che picchiano come dei fabbri, okay. Soprattutto negli Stati Uniti, soprattutto quando ti confronti sugli sparatutto, ci sono delle ragazze cattivissime. Sta cambiando molto lentamente, ma sta cambiando. Poi è chiaro che dipende molto dalla fascia di età, okay. Per cui nella fascia adolescenziale in Italia tutti giocano al calcio, negli altri paesi c'è un po' più di biodiversità da questo punto di vista, però sostanzialmente è ancora molto maschile. Però un papà che vuole regalare un videogioco a una figlia deve evitare l'errore di chiedere un videogioco da femmina, immagino. Sì, a me viene da dire che le femmine di base secondo me sono più intelligenti, nel senso che sono più intelligenti di base, sì. Però sono anche un po' più mature, visto che facciamo dei titoli e che parlare dei videogiochi in generale non mi piace assolutamente. Minecraft, che è un gioco estremamente interessante, è per chi non lo conosce una sorta di Lego Uh-huh. Ed è un fenomeno mondiale, visto che insomma viene anche adottato, è stato anche adottato dal MIUR, quindi dal Ministero dell'Istruzione. Ecco, Minecraft è un classico gioco che esalta e potenzia la creatività e la capacità di espressione, ed è un gioco che piace molto alle ragazze. Anche i Sims, non so se ve li ricordate, che è una sorta di, certo, di casa delle bambole trasparenti, dove si giostravano le vite di persone. Ecco, quello è un altro gioco che è piaciuto molto più alle ragazze che ai ragazzi. Poi devo dire che ormai il gender gap si sta sempre di più attenuando. Ma infatti, ecco. Luca, guarda, giusto per disinnescare al volo il luogo comune che volutamente Fede ha scelto di mettere in campo, mia figlia di 10 anni, come regalo di Natale, adesso io non farò il nome perché non voglio fare pubblicità, ma ha scelto proprio un videogioco. Ah sì? Cioè, ah, sì, uno, certo, spacca tutto? No, non uno spaccato, uno spacca a metà, diciamo. Uno spacca a metà. Luca, prima di salutarci, l'ultima categoria, che credo sia poi la preferita forse dai nostri ascoltatori o dai papà manager, sono appunto i videogiochi dove chiedono al giocatore di essere un piccolo manager. Quelli piacciono molto a noi, sono i manageriali. Ci tranquillizzano, quello, cioè dicono: ah, che bello, mio figlio sta imparando qualcosa mentre gioca. Ma allora, c'è da dire tutto, tu conta che io ho una moglie che si è laureata appena adesso in psicologia proprio su una tesi dei videogiochi, per cui figurati, per cui ha analizzato anche gli impatti a livello neurologico del gaming. Allora, tutti i giochi in qualche modo accendono la testa, poi più uno gioca meno si accende, perché chiaramente hai il momento in cui tu impari qualcosa di nuovo, per cui sei più attento e metti in atto più operazioni, e invece una volta che il gioco l'hai capito perfettamente, insomma, ti adagi un attimino. Per cui, premesso che tutti ti accennano in qualche modo, i manageriali sono proprio dei compiti, sono delle macchine dove studi le conseguenze delle tue decisioni, per cui insomma per gli esperti di teoria dei giochi sono una meraviglia, ma esistono anche dei manageriali sul calcio, senza fare nomi o troppa pubblicità, dove vai a gestire il minimo dettaglio, la chiacchiera con il giocatore depresso, oltre che la parte economica, per cui gli acquisti di nuovi calciatori o molto banalmente le tattiche per andare in campo. Ma poi, Luca, alla fine ogni gioco, no? Anche i giochi normali, i giochi manuali, i giochi comuni, alla fine non sono nient'altro che un facciamo che eravamo. I videogiochi mettono in campo questa finzione scenica, diciamo così, in maniera molto più realistica, ma alla fine il cuore della faccenda sempre quello rimane. Sì, insomma, il far finta che sia poi un legno, che sia una tecnologia avanzata, il gioco rimane gioco. Un grazie a Luca Tremolada, giornalista del Sole 24 Ore, per questo viaggio verso il Natale tale video giocato. Ciao Luca. Grazie a voi. Ciao. Ciao Luca, grazie. Ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con i padri. Dai Deborah, racconti la borsa tutto il giorno, dammi un titolo. È il meglio titolo il petrolio che sale o il dollaro che scende? È arrivato, se lo sapessi avrei gran soldi in Svizzera, per cui mi servirebbero i tuoi consigli per fare la voluntary disclosure. La voluntary disclosure è meravigliosa, ma ne abbiamo tante di questioni da chiarire agli ascoltatori. Sì, perché non sono temi difficili, noi dobbiamo essere autorevoli e leggeri. Sai, dobbiamo parlare con quella certa autorevole leggerezza. Bravo. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Tutti i giorni alle 11 su Radio 24. Padri Eterni. Spazio, un uomo nello spazio, perché la puntata di oggi dei Padri Eterni la chiudiamo in maniera un po' particolare. Non intervisteremo un papà, ma una figlia, la figlia di un astronauta. Sì, una bambina che ha vissuto la consueta distanza tra padre e figlia, quella distanza che i padri cercano faticosamente di colmare in maniera letterale. visto che il padre è nello spazio. Suo papà è Paolo Nespoli, tornerà sulla Terra tra pochi giorni. Lei è Sofia, l'abbiamo raggiunta a Houston e a causa del fuso orario ovviamente abbiamo registrato l'intervista. Questo è quello che ci ha raccontato. Ciao Sofia, buongiorno. Ciao. Come stai? Buongiorno. Bene. Quanti anni hai? 8. So che parli tante lingue, vero? Solo 3. L'italiano, il russo e l'inglese. Sofia, allora, cosa si prova ad avere un papà astronauta, un papà nello spazio? Per te è tipo un supereroe, è tipo Superman tuo papà? Un pochino. Ah sì? Perché, dici? Va nello spazio, fa tanti esperimenti e tocca i topini. Tu quante volte lo senti o quante volte lo vedi? Cioè, vi parlate quando lui è nello spazio? Sì, la mamma parla sul telefono con noi e noi abbiamo questo iPad e l'app dentro che si può vedere papà dallo spazio. Ma ha portato qualche tuo oggetto, qualche tuo giocattolo con lui? Sì, ha portato 3 e 4. Che cosa? Perché uno di Max. Ah, che è il tuo fratellino. E cosa ha portato? Quali giocattoli ha portato? Un pupazzo di orso. Sì. Poi un dinosauro. Ah, ok. Un dinosauro. Uh-huh. Che non è vero. Sì, finto, spero. Uh-huh. È un coniglietto. Sofia, ma quando vedi il tuo papà che galleggia nello spazio, ti fa un po' ridere? Sì, perché fa tutti i capriole, così mi piace, mi fa ridere. E hai un sacco di cose da raccontargli? Sì, tantissimi, tantissimissimi. Gli hai mai fatto vedere i compiti? Ti ha chiesto come stai andando a scuola? Ha chiesto come sto andando a scuola tutte le volte che lui va sull'app. Sì. Ma nella nostra scuola è una Montessori scuola e non ci abbiamo le compiti. Ah, questa è una bella fortuna, assolutamente. E qual è la prima cosa che gli dirai quando lo vedrai tra pochi giorni? Ciao papà, come stai? Sei già tornato dal spazio? Sì. E poi salto addosso. Mi sembra un grande saluto. Grazie Sofia, sei stata simpaticissima. Salutaci papà appena arriva, ok? Ok. Ciao Sofia, buona giornata. Anche voi, ciao. Grazie. Ho parlato con mia moglie e con mio figlio in videoconferenza questa domenica, abbiamo fatto una videoconferenza di una decina di minuti ed è stato interessante come sia Sofia che Max sono venuti, hanno salutato, molto contenti di aver vissuto questa esperienza, è stata una bella esperienza per tutti. Per loro devo dire è quasi una cosa normale, anzi Max non ha capito l'importanza di darmi qualcosa che possa che avessi potuto portare quassù, e difatti è stato un problema tirargli fuori dalle mani qualcosa, mi ha dato il Transformer, ma quello più piccolo, perché gli altri sono suoi, ci deve giocare. Per loro è normale ed è normale che sia così, perché loro sono il futuro e per loro queste cose che per noi sono eccezionali sono normali, ma anche credo che anche loro, quando diventeranno più grandi, succederà la stessa cosa anche per loro con i loro figli. È il momento dei saluti, un grazie a Paolo Corleoni oggi alla parte tecnica, a Miriam Lucchetti che con noi ha scritto la puntata, radio24.it il nostro sito, da lì potrete riascoltare il programma oppure i padri eterni @radio24.it se volete contattarci, la stessa cosa potete farla attraverso la nostra pagina Facebook. Matteo, è il momento della lettera, oggi a chi hai scritto? Oggi abbiamo scritto a Mark Zuckerberg, patron di Facebook, Zucchi per gli amici. Non è che poi ci chiuda la pagina Facebook, vero? Speriamo di no. Ascoltiamola insieme. Lettera aperta a Mark Zuckerberg. Caro Mark, è notizia di questa settimana l'imminente lancio sul mercato di Messenger Kids, la nuova app di Facebook che permetterà a ragazzini dai 6 ai 12 anni di chattare fra loro. Questa app, ci rassicuri, si utilizzerà tramite il profilo social dei genitori, che potranno così controllare l'attività online dei propri figli. Detta così, sembra tutto bellissimo. La prima impressione, però, scusa se te lo dico, è che questa pare soprattutto una maniera per aggirare il limite di età per l'utilizzo di Facebook che tu stesso hai deciso, quello dei 13 anni, accaparrandoti così una nuova fetta di potenziali clienti. La seconda impressione è che il filtro genitori, proprio come troppe volte fallisce nella vita per carenza cronica di tempo e di attenzione, abbia grandi probabilità di fallire anche qui. E il risultato rischia di essere quello di esporre precocemente milioni di bambini alle miriadi di pericoli nascosti fra le pieghe della rete. Perciò la domanda che ti vorrei rivolgere, da padre a padre, è solo una. Perché crear loro una necessità che non hanno? Davvero pensiamo che i bambini abbiano più bisogno di chattare che di parlare, di inviarsi emoticon invece che di guardarsi in faccia, di cominciare a frequentare così presto un altrove i cui rischi non sono prevedibili, invece di vivere semplicemente nel qui? Verrà anche per loro il momento delle chat. Arriverà fin troppo presto. Ma fino ad allora, il più bel regalo che possiamo fare è forse quello di lasciarli liberi di essere, senza anticipare tappe, rispettando i tempi del loro percorso. Meno app, più roadmap.